nuovamente in diretta, non vi è la palla 2 di Paolo Onofri, oggi impegnato al lavoro e quindi impossibilitato alla presenza in diretta, ma c'è sempre e comunque la voce da remoto dell'enciclopedico Onofri con la sigla di Grover Washington Jr., Mr. Magic, pensiamo sia dedicata al grande Irvin Magic Johnson. Inizia il Move to Groove diviso in due parti, se vogliamo i primi 20-25 minuti a una storicità della franchigia di Denver, e per quanto riguarda la seconda parte da un'ispirazione che è arrivata dal Voltiamo Pagina. E come ogni Voltiamo Pagina vi è un incipit, l'incipit invece riguardante il Mood Groove è una giusta considerazione per la posizione d'onore tenuta dalla Virtus Bologna, seconda nel campionato italiano, ha portato a gara 7 l'Olimpia a Milano, per cui un ottimo campionato nonostante le critiche arrivate sempre comunque in una non pallacanestro che non seguo, per cui mi fermo unicamente ai complimenti e alle felicitazioni. Nonostante non sia arrivato il titolo, indubbiamente un campionato ricco di soddisfazioni per la squadra bolognese. Oh, voi dite che non sono decubertiniano e sportivo, per me la pallacanestro è come andare a teatro, per me la pallacanestro era bellissima proprio per la possibilità che dava nel seguire questo spettacolo e questa manifestazione condivisibile, ovviamente, e non sempre con risultati piacevoli, lo sappiamo bene, ma del resto la pallacanestro è come la vita, difficilmente, anzi è impossibile pareggiare, non è il calcio dove troviamo gli 0-0, no, non ci sono le reti inviolate, anche se adesso fare canestro nonostante questa specialità balistica da distanze siderali, fare canestro a quanto pare sia difficilissimo, e appunto noi torniamo a una pallacanestro degna di tale nome in anni di grande rivoluzione. Andremo anche prima, in quanto la storicità di Denver, città di cui abbiamo parlato, sulle montagne rocciose, su questo altopiano, città che dà un panorama geografico meraviglioso sulle montagne rocciose e non solo, anche capitale del Colorado per quanto riguarda franchigia nello sport professionistico, ufficialmente riconosciuta nella Lega parallela alla fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, e NBA ha avuto percorsi, mi permetto, abbastanza anonimi, ma nella pallacanestro professionistica e nello sport americano il percorso anonimo non esiste, in quanto la possibilità di scelta al draft dà a tutte e a tutti la possibilità di portare a casa un titolo e l'anello. È quello che è successo a Denver per la stagione 2022-2023. Gli inizi da subito nella NBA. Denver resta sempre la capitale, oltre che del Colorado, ma anche la città sede della squadra professionistica di pallacanestro. Non vi è cambio di sede per la franchigia. Sapete che a volte per scelte politiche economiche le sedi delle franchigie NBA possono spostarsi. No, Denver è rimasta sempre a Denver. Ha cambiato il nickname dopo alcuni anni nella ABA con il nickname di Rockets, prenderà il nome di Nuggets, cioè pepite, in quanto il Colorado, famoso per la febbre dell'oro, ha riportato il nome di pepite agli atleti che vestivano i colori di Denver, i Denver Nuggets appunto. La musica e la colonna sonora quest'oggi sarà varia, inizierà con un'estate in città raccontata da Quincy Jones e Summer in the City, poi inizieremo dai primi anni e NBA, dove una star per la squadra di Denver con un nome che può portare a confonderci con un'altra superstar che arriverà più avanti, ma basta cambiare una vocale. Infatti il primo campione di Denver era una guardia, un esterno, tale Ralph Simpson. Thank you. prima superstar di Denver, non confondiamolo con il gigante Ralph Sampson che arriverà più avanti. Questa guardia tiratrice andrà in doppia cifra oltre i 20 punti e darà la prima idea di uomo franchigia per la squadra di Denver. Comincerà nella ABA, sarà tra le franchigie che passeranno selezionate per entrare nella NBA. E non bastavano i risultati, ci vuole una sicurezza economica, ci vuole una sede adeguata, ci vuole anche un aspetto di conoscenze in questa lobby che poi è la NBA. Non è solamente e semplicemente una questione di risultato. Insieme a San Antonio me ne vengono in mente alcune: Indiana, New York, che poi andrà a New Jersey, le poche franchigie che andranno e faranno il passaggio allo scioglimento della ABA. Gli anni che però nella parte poi di percorso di Denver che vedranno superstar più vicine al contemporaneo è la presenza di David Thompson, un atleta incredibile, un saltatore, anche lui un esterno, 1,94-1,95, giocava ufficialmente da ala piccola, lui un atleta, matto come un cavallo, un giocatore incontrollabile, ma incontrollabile anche dal punto di vista comportamentale. Lo stesso Julius Irving, The Dr. J, grande ammirazione per le doti atletiche di David Thompson, schiacciate contropiede, palle rubate, presenza fisica, atletismo, un giocatore eccezionale che per così dire ha sostituito e ha dato percorso ai Denver con la figura iniziale di Ralph Sampson. A seguire la stella della ABA diventò Dave Thompson per la franchigia del Colorado. Ma ora arriviamo a quella che secondo me è stata l'ala forte, bianca, più forte di tutti i tempi, perdonate la ripetizione. A Denver inizia la carriera tale Bobby Jones, il ministro della difesa. È nel mio dream team personalissimo, insieme a Buck Williams. Quando parliamo di power forward, indubbiamente Bobby Jones e Buck Williams, le due power forward pure più forti di tutti i tempi. Bobby Jones è un grandissimo difensore, ma non perché picchiava, perché sapeva tenere la posizione a triangolo tra uomo e palla, braccia lunghe, atleta incredibile, dinamismo, intuizione, ma nello stesso tempo anche una capacità di realizzatore importante. Un giocatore che poi andrà a Philadelphia, vincerà il titolo, metterà nei guai il più grande dei Larry Bird, in quanto lui difensore veramente arcigno, ostico, presente, dinamico, un collante per così dire, che in una squadra è indispensabile. Giocatore secondo me fortissimo. Completiamo con un centro già dai tempi atipico, ma molto atipico. È il cavallo, lo chiamavano così, è Dan Issel. Perché atipico? Perché il centro gioca a spalle a canestro, è un perno, è il pivot, no? Ecco, Dan Issel è uno dei primi centri che basa il suo gioco sul tiro da fuori ed è veramente una sentenza, eh? È un giocatore dal punto di vista offensivo eccezionale. Arriva a Denver, resterà a Denver anche nel passaggio per la NBA da lì a pochi anni ed è uno dei centri più forti della Lega. Un attaccante nato, un giocatore intelligente, due mani d'oro, un'esecuzione di tiro perfetta, un attaccante veramente ricco di talento. Con questi tre nomi ufficialmente entriamo nella pallacanestro della rivoluzione cestistica di fine anni 70 fino alla metà degli anni 80: Dave Thompson, Bobby Jones e Dan Issel. Questi tre nomi che traghettano la franchigia di Denver dalla ABA alla NBA. You're gonna make your fortune, baby. has shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, secret plan. You're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. The game he plays for keeps. Hustling times in ghetto streets. Questi tre grandi talenti, David Thompson avrà qualche problema personale e comportamentale, la sua carriera termina. Dan Issel resta come uno dei centri e, nonostante l'apparenza, tra i più moderni nella pallacanestro odierna, allenato in un centro in un certo modo, sarebbe un giocatore fenomenale. E poi, come ho già detto, per me il giocatore più forte mai stato a Denver è Bobby Jones. Da lì a breve andrà a Philadelphia, farà parte di un quintetto eccezionale, porterà l'anello nella città della Pennsylvania ed è stato veramente storia della pallacanestro. Per me il giocatore più forte che ha calcato a Denver è Bobby Jones. Quindi Superfly, Curtis Mayfield, un super volo che ci porta agli anni della NBA. Nell'NBA procede Denver, appena arrivata dalla Lega parallela, avrà delle difficoltà ovviamente, ma la caratteristica di Denver la porterà un allenatore che è stato anche atleta in Italia come straniero a Padova, tale Dagmo, un attaccante, e lui trasforma il gioco di Denver in maniera assolutamente e unicamente offensiva. Mantiene Dan Issel, Bobby Jones andrà a Philadelphia, arriveranno due attaccanti incredibili, entrambi con almeno 30 punti nelle mani, Alex English e Kiki Van de Weeg. Beh, certo, le partite finivano 160 a 162 per gli avversari, però la logica di Doug Moe, che era il run and gun, il corri e tira, gli avversari devono fare un punto più di noi. Noi pensiamo a far canestro, poi la difesa è... Ok, mi piacerebbe tanto, sapete, odiavo difendere, però è indispensabile per portare a casa la partita, è indispensabile difendere, e con un front line composta da Alex English, uno degli attaccanti fondamentali più incisivi della NBA, lo stesso Kiki Van de Weeg, quando parlano dello step back, adesso non hanno inventato niente, lo step back è identico, non è altro che il Kiki Move, che è questo arresto, passo indietro e tiro. Buongiorno Move to Groove, buongiorno a Telino. Per capire il livello di Thompson, lui interruppe il record di UCLA di 88 vittorie e 9 titoli consecutivi, questo sconfiggendo UCLA di Bill Walton. Eh sì, beh, lui grandissimo, lui ha problemi personali e comportamentali, altrimenti... beh, sarebbe stato ulteriormente un titano della pallacanestro, uno tra i più grandi atleti, un saltatore, un contropiedista, una reattività incredibile. Come si dice, matto come un cavallo, eh? Beh, non è una novità trovare genio e sregolatezza, ma arrivati ai primi anni 80 la formazione di Denver vedrà questo trittico offensivo che sarà veramente immarcabile. Peccato che nessuno avesse l'idea della difesa. certo gran divertimento a vedere Denver, i risultati non furono eccezionali. Ciò non toglie che Alex English, uno tra i più grandi attaccanti di tutti i tempi, Kiki Van de Beek, per il mio gusto personale, è un giocatore eccezionale, un vero all-star, confermato da Nissel, ma ormai al termine della carriera. Arriverà tramite una trade un giocatore tanto forte, pensate, questo veramente poteva cambiare le sorti di Denver. Arriverà tale Calvin Knight da Portland, e a Portland va Kiki Van de Beek. La squadra porta un equilibrio grazie a Calvin Knight, oltretutto una persona eccezionale. Lui ora si occupa di gestire per famiglie in disperazione e in situazioni di poco abbienti, in situazioni non certo di disponibilità economica, ecco, di tutto quello che è l'aspetto del lutto di famiglia. Quindi lui ha questa istituzione, ha questa organizzazione e porta avanti un aspetto, non dico consolatorio, ma con un'equipe di psicologi, di dottori, di studiosi, di portare questa tanatologia, cioè questa elaborazione del lutto. Si dice, e ne sono certo, Calvin Knight, una persona veramente dal punto di vista umano, oltre che un grande campione, incredibile. Calvin Knight porterà un equilibrio e farà una stagione a 23 punti, 10 rimbalzi, 8 assist, fa l'All-Star Game, entra, mi pare, anche nel quintetto della stagione NBA come numero 4, come power forward, un giocatore completo, un giocatore con una buona mano da fuori. Io a volte mi è scappato, detto, lui è Larry Bird nero. Arriva la tegola, Calvin Knight si fa male in maniera seria, si fa male in maniera molto seria. Farà la stagione successiva solo 50 partite su 82, infortunato, ginocchio sbriciolato. Riprova dopo la rieducazione a iniziare una nuova stagione e pensate, nella stagione successiva 2 partite, e ovviamente ci sarà un ridimensionamento di questo All-Star che porterà grandi limitazioni alla squadra del Colorado. Ho parlato di Doug Mo, grazie Lino. Altra curiosità, sai chi allenò Doug Mo a Padova? Nikolić. Sì, questa scienza cestistica. Doug Mo, grandissimo giocatore. Con l'infortunio di Calvin Knight, Denver ovviamente ha vissuto delle difficoltà non indifferenti, Poi alcuni atleti indubbiamente sono meritevoli di essere portati all'attenzione del pubblico. Un playmaker, una guardia, per me di prima fascia, molte volte considerato, beh, un playmaker, sai, c'è John Stockton, c'è Mark Price, c'è Kevin Johnson. No, per me un altro playmaker di prima fascia per i Denver Nuggets era Lafayette Lever, detto Fat. Faceva ridere Fat, vuol dire ciccio, vuol dire, adesso non voglio essere fat, vuol dire grasso, no? F-A-T, ma il suo nome è Lafayette. Il fratellino non riusciva a pronunciare il nome del fratello maggiore, allora quando lo chiamava Hey Fat, solo che Lafayette è veramente un chiodo, è secco secco, e paradossalmente questo nomignolo gli è rimasto per tutta la sua carriera anche nella NBA. Fat Lever, grandissimo difensore, recupera palloni, giocatore completo, un playmaker secondo me non certo di secondo livello, tutt'altro. Gran bel giocatore Lafayette Lever. Concludo quasi con una modalità folcloristica che è dedicata a un giocatore che sarebbe stato il sogno di ogni allenatore incapace, perché ogni allenatore incapace ama il giocatore, perdonatemi, incapace. Quindi Bill Hanslick, lo Zander Hollander, diceva: Bill Hanslick è un giocatore completo, sa fare tutto, peccato che lo fa male. keep trying to tell me here. All you want to do is use me. But my answer, and all that use me stuff. Good getting used, oh, you just keep on using me until you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. Bill Hanslick si dannava l'anima, grande difensore, capace di completare il quintetto in attacco, poteva giocare più ruoli, un giocatore completo, un giocatore anche fisicamente ben dotato. Beh, insomma, peccato che in questa completezza c'era poi una concretezza di esecuzione a parte antiestetica, ma anche non certo di quel talento cestistico che all'epoca era presente nella NBA. La Bibbia della NBA, l'annuario, lo Zander Hollander, immancabile nelle case di ogni appassionato, ovviamente anche con una dose di ironia nella descrizione del profilo di Bill Hanslick, affermava: oh, giocatore completo, è capace di far tutto, peccato che fa tutto male. It's true, you really do abuse me. Ma nelle difficoltà di Denver ha avuto anche lui la sua parte nel quintetto delle pepite, che portiamo a conclusione fino a quando ho seguito e vi posso dare notizie storiche sulla franchigia. L'arrivo dallo Zaire di un centro che rispondeva a nome di Dikembe Mutombo. Uno stoppatore, un giocatore difensivo, una grandissima, immensa presenza che ovviamente sarà centro importante nel periodo di normalizzazione, fine degli anni 80 e tutti gli anni 90. Un giocatore che poi troverà la sua fortuna nella carriera ad Atlanta, ma l'importanza di esordio a Denver l'ha portato sul palcoscenico della NBA in maniera assolutamente consistente. Da quello che è successo dopo a Denver, se volete, me lo potete raccontare voi. Quello che so è che nel 2023 ha portato a casa il primo anello. Quindi complimenti a Denver e ovviamente buona fortuna alle pepite del Colorado. Andiamo in pubblicità, rientriamo tra pochissimo e avremo un'intersezione invece di ispirazione letteraria per quanto riguarda il Mood Groove odierno. Dopo la pubblicità, a tra poco. Slower. Paolo Onofri in questo rientro in diretta porta a completare la storia di Denver Nuggets con un atleta che ho lasciato, che ho così descritto in maniera molto veloce rispetto a una carriera veramente luminosa che ha concluso in Italia a Napoli, ma che è stato uno degli attaccanti più forti della storia della pallacanestro. Mi ha ricordato via messaggino, via WhatsApp, che Alex English è stato il più grande realizzatore del decennio 1980, il più grande realizzatore, se mettiamo assieme tutte le stagioni degli anni 80, è stato il Denver Nugget Alex English, giocatore eccezionale, ricordando che appunto è stato il più grande realizzatore del decennio più grande della pallacanestro nel periodo di rivoluzione cestistica. Quindi completiamo e diamo, mettiamo i puntini sulle i, insomma. Nel voltiamo pagina appena trascorso, questi 10 minuti volevo portarli in questo modo. L'ispirazione mi è arrivata dal lavoro presentato da Silvia Albertazzi, Gap Dear, scrittore che a me piace tantissimo per Il Saggiatore, ha portato un lavoro, Gli ultimi giorni di Roger Federer. La carriera di un atleta, la carriera di un artista, la carriera di un musicista nella parte vicina al termine di carriera, dove molte volte, ma no dai, è un disco in cui lui era già cotto o bollito, ma no dai, è una parte di carriera che arriva che non è esattamente più quello di una volta. A volte è troppo frettoloso questa critica, è una critica troppo frettolosa. Another junkie plan, pushing dope for the man. Ne ho dato un abbinamento musicale, i lavori di Freddie Hubbard per la CTI secondo me sono bellissimi e lui è stato un trombettista hard bop tra i più importanti, ma negli anni 80 i lavori della CTI sono stati altrettanto gustosi e belli, ma lo stesso Paul Desmond nell'ultima parte di carriera ha dato al suo suono un aspetto soul quanto mai bello, gradevole, ispirato. Tutto ciò capita anche nell'aspetto cestistico. Ho portato due figure che hanno dato questa sensazione. Una l'ho già citata, quando ho parlato di Bobby Jones come numero 4 bianco più forte di tutti i tempi. Beh, il colored più forte in ambito ovviamente di ruolo di power forward per me è stato Buck Williams. Buck Williams è stato il rimbalzista che non ricoprisse il ruolo di centro più importante nella storia della pallacanestro. Lui non giocava da centro ovviamente, ma da ala forte e neanche da ala pivot. Beh, nonostante il ruolo, secondo me il rimbalzista più concreto e più efficace, giocatore anche lui che ricopriva un aspetto completo nel ruolo importante per la difesa, importante anche per l'aspetto offensivo al rimbalzo, nelle palle vaganti e nella capacità di avere una tecnica quanto mai specchiata unita a un atletismo costante. Beh, decidono un trade nei Nets, lui giocava a New Jersey, nei New Jersey Nets decidono in questa parte terminale, finale di carriera, di portarlo a Portland, chiaramente per fare il settimo o l'ottavo. No, non è andata così, è stato un giocatore da starting five, ha portato la franchigia dell'Oregon vicino a Clyde Drexler, vicino a Terry Porter, Kevin Duckworth alle finali NBA scontrandosi con i Chicago Bulls, ed è stato una pedina fondamentale in tutto ciò. C'è un premio, sapete, nella NBA danno i premi in maniera così molto estesa, c'è The Most Improved Player, il giocatore più migliorato, ma non è esattamente questa la caratteristica che voglio evidenziare, è l'atleta che in una parte di carriera importante, magari adesso può giocare da settimo, da ottavo, sarà un ottimo, darà respiro, porterà esperienza. No, Buck Williams ha portato concretezza, solidità, allo stesso modo che ha portato ai New Jersey Nets. Anzi, vi dirò. L'altro, secondo me, il centro più forte in assoluto è stato Bill Walton. Bill Walton è falcidiato dagli infortuni, la Blazer mania, portando a Portland quel titolo negli anni 70 che ha dato importanza a una squadra allenata da Jack Ramsey col centro di UCLA. Per quanto riguarda la co-conduzione di Lino, ha citato UCLA di Bill Walton. Sì, secondo me il centro bianco più forte in assoluto, non lo sto a descrivere perché ne ho già parlato tantissimo di Bill Walton, questo giocatore con delle mani eccezionali, una capacità tecnica di movimento, una presenza al rimbalzo, anzi aggiungo probabilmente il primo centro playmaker della storia. Da Portland va a San Diego, è completamente distrutto, tanto più che non viene neanche considerato. Beh, trova la sua dimensione, ed è giusto così, perché è un giocatore veramente forte, nella squadra più forte di tutti i tempi, Boston Celtics del 1986, anno che sarà di cesura tra la pallacanestro e un altro modo di giocare a pallacanestro con l'arrivo di Michael Jordan. Ecco, l'anno chiave è il 1986. Bill Walton sarà il sesto uomo dei Boston Boston Celtics, lo porterà al titolo ovviamente in un'annata veramente speciale, e inserendosi da pedina fondamentale per questa formazione più che stellare. Non è una seconda possibilità, ecco, è quello che è particolare, capita poche volte, sapete che do sempre parallelismi tra lo sport e quella che è una quotidianità e un caso di vita. Non è una sliding doors, non è un caso, non è, beh, ovviamente ci vuole l'inserimento giusto, come sempre la fortuna ha la sua parte, va da sé, ma non è casualità, non è un percorso, che è un rivelare talento sapendolo donare con valore aggiunto nonostante la parte finale di carriera. Rappresentano questa caratteristica due grandi giocatori, Buck Williams e Bill Walton, che portano a conclusione come 4 e come 5 la nostra puntata odierna del Move to Groove, dando appuntamento a martedì prossimo. Fumiamo la nostra sigla, oggi la sigla è Move On Up di Curtis Mayfield per i saluti. A breve avremo l'edipeo enciclopedico, seguirà Liberi Dentro e poi la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. E per quanto riguarda invece la giornata di domani, già vi ho citato la rubrica letteraria, il Voltiamo Pagina. Non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione, augurarvi un buon martedì, una buona giornata, un buon ascolto sulle nostre frequenze. Mattiniere e mattinieri, mi raccomando, domattina alle ore 7 con una nuova puntata del Breakfast Club, e mandarvi un grande abbraccio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.